GR Europa. Il partito di Beppe Grillo ha preso il 25% dei voti, ora deve decidere se vuole restare spettatore o se ha preso i voti per contribuire attivamente a risolvere i problemi dell'Italia. Io, dopo aver raccolto molte informazioni e essermi confrontato con molti che hanno votato il Movimento 5 Stelle, spero che loro appoggeranno un governo che porti avanti i temi su cui vogliono lavorare, ma allo stesso tempo proponga soluzioni per risolvere i problemi del vostro paese. Così oggi il presidente tedesco dell'Europarlamento Martin Schulz in visita a Roma. Servono 900.000 specialisti dei sistemi digitali. Mentre molti non trovano lavoro, il digital divide in Europa continua ad allargarsi. Così il presidente della Commissione Europea Barroso oggi a Bruxelles, lanciando la grande coalizione per il lavoro digitale. Laura Bettini ha intervistato Ryan Heath della Commissione Europea, che ci racconta i contenuti di questo progetto. Siamo in un momento particolare, ci sono milioni di persone che cercano lavoro, mentre nel settore informatico e digitale esistono molti posti vacanti per i quali non si trovano addetti. Al momento sono diverse centinaia di migliaia, secondo le nostre stime nel 2015 saranno 900.000 i posti vacanti, in Italia per esempio saranno 100.000. Noi vogliamo che le persone abbiano la possibilità di avere le competenze richieste e che queste competenze siano certificate in modo anche di permettere loro di trovare impiego in paesi europei diversi da quello di origine. Avete individuato carenze specifiche? Sì, ad esempio nelle case avremo migliaia e migliaia di dispositivi smart per il controllo dei consumi energetici o la regolazione del riscaldamento e quant'altro. Non solo servono aziende in grado di produrli, ma anche personale capace di installarli, di programmarli. E diventa cruciale però anche il tema della mobilità per incrociare domanda e offerta di lavoro, soprattutto per quel che riguarda le piccole imprese. Noi vogliamo poter aiutare le persone a trovare il lavoro che cercano. Così se un lavoratore non può permettersi di trasferirsi in una regione dove ci sarebbe un lavoro per lui, ecco, noi vogliamo lavorare con i governi e vedere quali strumenti possiamo usare per raggiungere l'obiettivo. Qualsiasi università o azienda italiana lo desideri può diventare parte della coalizione. Ci contattino a Bruxelles. Questo era Ryan Heath, intervistato da Laura Bettini. E ora, in Italia, nel 2011 sono stati generati 535 kg di rifiuti pro capite. Di questi 505 sono stati trattati, ma solo il 34% riciclati o trasformati in compost, contro la media UE a 27 del 40%. Questo secondo i dati diffusi da Eurostat. In Italia il 49% è stato conferito in discarica, il 17% all'inceneritore, il 21% riciclati, il 13% trasformato appunto in compost. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo solamente questa sera l'appuntamento dell'Eurogruppo. Noi ne parleremo domani, ma naturalmente si può seguire direttamente negli spazi di GR24. E dunque GR Europa torna domani, come sempre, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.